Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Corea del Nord, lacrime e missili nello show di Kim Jong-un. In Nigeria, le proteste contro le violenze della polizia. E infine l'indice globale della fame e lo stato di salute del mondo. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Special anti-robbery squad known as SARS has been dissolved. This is in response to the nationwide protest. An impressive show of force through the streets of Pyongyang. This parade unusually held at nighttime. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata, ben ritrovati. Buon inizio di settimana, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. Anche quest'oggi siamo pronti a raccontarvi ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Per farlo con me ci sono, come sempre, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. E per farlo, naturalmente, avrò bisogno anche dei vostri commenti, delle vostre domande, per alimentare il dibattito sui temi che vi propongo. Lo potete fare digitando al 349-238-6666, sms WhatsApp, godendovi la diretta Facebook, per così dire, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, twittando, se vi piace questo social. I due account sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Ve lo anticipo, tanti dossier internazionali, dobbiamo un po' recuperare lo stato dell'arte del weekend appena trascorso e tanti temi in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato, Kim Jong-un ha festeggiato a Pyongyang i 75 anni dalla nascita della Corea del Nord con uno sfoggio di rara muscolarità, compreso un nuovo missile balistico che ha preoccupato, ha fatto saltare qualcuno sulla sedia lì al Pentagono. Poi in Nigeria, perché da settimane c'è un hashtag che sui social, appunto, dell'importante paese africano va per la maggiore: End SARS. Niente a che fare con epidemia o con Covid-19, piuttosto con la brutalità di una speciale squadra d'élite della polizia nigeriana. E poi faremo una piccola parentesi, perché quest'oggi è stato presentato l'indice globale della fame, che è una fotografia molto accurata dello stato di salute del mondo, con alcune novità. Esce ormai da parecchio tempo, c'è un trend piuttosto positivo dal 2000 in poi, ma ci sono dei ma che proveremo a sottolineare. 349-238-6666 per voi, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Nagorno-Karabakh ed è un dossier ricco di chiaroscuri, perché sabato, come vi avevamo anticipato già nella puntata di venerdì, i ministri degli esteri sia di Armenia che di Azerbaigian si sono incontrati a Mosca e dopo 10 ore di trattative lunghe ed estenuanti avevano concordato un cessate il fuoco. L'accordo coinvolgeva anche la mediazione della Croce Rossa Internazionale ed era volta evidentemente a prestare aiuto alla popolazione che è stata duramente colpita da questi lunghi giorni di conflitto. In più c'era l'idea di iniziare uno scambio di prigionieri. Tutto bene, direte voi? No, malissimo, perché la tregua è durata molto molto poco. Entrambe le parti si sono accusate vicendevolmente di aver violato il coprifuoco stesso e gli scontri sono ripartiti in maniera molto molto violenta la notte scorsa e la mattinata di quest'oggi. Come vi stiamo raccontando in queste puntate di Nessun Luogo Lontano, una delle armi più formidabili a disposizione di Yerevan e Baku è sicuramente la propaganda. Baku rivendica efficaci attacchi contro le forze supportate da Yerevan, accusa l'Armenia di colpire i civili nelle aree residenziali delle città più importanti dell'Azerbaigian. Yerevan, dal canto suo, sostiene che siano tutte menzogne, mentre accusa le forze azere, di continui bombardamenti in tutta la regione contesa, compresa la capitale Stepanakert. Nel frattempo si rifà sentire la voce diplomatica, è quella di Teheran, che già aveva parlato nella settimana scorsa, prima di questo tentativo di dialogo da parte russa. Dice: il governo iraniano è pronto a facilitare la ripresa del dialogo. E poi andiamo negli Stati Uniti, perché è iniziata alle ore 9 locali e CNN, ma anche Al Jazeera ne davano ampio spazio con lunghe dirette, e peraltro anche alcuni siti di giornali americani stanno seguendo l'evento. È una serie di udienze, 4 giorni, che vedono la commissione giudiziaria del Senato intenta a confermare o meno la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Ricorderete la morte di Ruth Bader Ginsburg, era più o meno metà settembre, era deceduta, e così Donald Trump aveva nominato Amy Coney Barrett al suo posto per la Corte Suprema. Saranno 4 giorni molto molto tesi e anche ricchi di una serie di controversie che non c'è dubbio avranno ripercussioni sulla campagna elettorale. Sono partiti all'attacco decisamente i democratici, sostenendo che la nomina del giudice Barrett è una presa di potere a tutti gli effetti da parte di Donald Trump, che ha molta fretta, da quello che sembra, a concludere questa nomina molto prima delle elezioni del 3 novembre. Qualcuno sussurra che in caso di contestazioni anche in tema elettorale questa nomina potrebbe volgere la Corte Suprema a favore dei repubblicani. Repubblicani ovviamente che da parte loro stanno schivando le accuse e piuttosto cercano di reindirizzare la questione sul brillante curriculum della giudice che è stata scelta da Donald Trump. Staremo a vedere questi 4 giorni. Stavo buttando l'occhio sia a CNN che al Jazeera, ma in questo momento non stanno mandando le immagini che arrivano dalla commissione giudiziaria del Senato. Beh, nel caso, se vi saranno eventi eclatanti, naturalmente in quest'ora ve ne darò conto. Altro evento eclatante è stata una presa di posizione, una dichiarazione da parte di Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti, che ha annunciato venerdì che l'assemblea da lei presieduta vuole invocare il 25esimo emendamento. Sostanzialmente questa legge conferisce al Congresso il potere di valutare la salute e la stabilità anche mentale del Presidente degli Stati Uniti. Naturalmente questo tipo di impugnazione richiederebbe l'ok del vicepresidente Mike Pence e dei membri del gabinetto, cosa evidentemente non avverrà mai, e sembra quindi un chiarissimo segnale politico. La scusa, l'alibi, o meglio la spiegazione, per dirla tutta, del Nancy Pelosi è: il presidente è sotto farmaci, quindi il suo stato è alterato. Qualcuno giudica questa presa di posizione politica un'arma un po' spuntata. Sembra quasi che la Pelosi voglia polarizzare, come in realtà sta già facendo il presidente statunitense Donald Trump, proprio la base elettorale. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, alcuni anticipano già il nostro tema, quello della Corea del Nord. Ci vado, non prima però di avervi dato conto della nuova mossa di Ankara. La nuova mossa di Ankara si chiama Oruç Reis, che è quella nave che consente esplorazioni alla ricerca di gas e di petrolio nei fondali del Mediterraneo orientale, che aveva creato quel contenzioso che è tuttora in corso sostanzialmente tra Grecia e Turchia. Grecia che è saltata sulla sedia, evidentemente, come potete immaginare, perché l'Oruç Reis era ritornata nel porto. Il problema è che, per esempio, questa missione, che durerà 10 giorni e che porterà avanti queste esplorazioni, le farà a 6.5 miglia nautiche a sud dell'isola greca di Castello Rizzo. E così Atene si è fatta sentire, dice che la condotta del presidente Erdogan è assolutamente provocatoria, e allarga, anche Atene mette il grandangolo, come solitamente facciamo noi, perché le provocazioni di Ankara vanno in vari teatri, dalla Libia, Cipro, la Siria, l'Iraq e adesso, come vi abbiamo raccontato, anche il Nagorno Karabakh. Sto leggendo un po' di interessanti analisi e riflessioni da parte di studiosi di geopolitica in questi giorni, che concordano su un aspetto, e ne abbiamo tanto parlato qui Nessun Luogo Lontano. La proiezione militare di Ankara in tutti questi teatri sta probabilmente mettendo in enorme stress la proiezione militare stessa, perché sono teatri, tanti teatri molto distanti, e alcuni dicono anche la catena logistica, banalmente, potrebbe non reggere nel lungo periodo, e quindi staremo a vedere se questo gigantesco castello in proiezione che sta costruendo Erdogan reggerà appunto nel lungo periodo. Ultimissimo dossier che vi sottopongo ci porta in Kirghizistan, ma anche in Tagikistan. L'Asia centrale sembra ribollire in queste ultime settimane. L'ex presidente kirghizo Atambayev ha dichiarato di essere sopravvissuto a un attentato, e questa è la prima notizia. La seconda è che è stato arrestato dai servizi di sicurezza con l'accusa di organizzare disordini e proteste di massa. Nel frattempo il Parlamento kirghizo ha eletto come nuovo premier Sadir Japarov, fondatore del partito Mekenchil, che ha immediatamente ribadito come Mosca rimane un partner strategico per Bishkek. Vi parlavo anche di Tagikistan e attenzione a considerare luoghi lontani, i paesi di cui vi parliamo in queste puntate, in nessun luogo lontano, perché sono strategici. Primo per la posizione vicino a Russia e Cina, secondo per tutte le pipeline e le condutture energetiche, le infrastrutture energetiche che attraversano mezzo globo. Dicevo, la commissione elettorale ha annunciato oggi, siamo in Tagikistan, che il presidente uscente Ramon è stato rieletto con il 90% delle preferenze. Il presidente è alla guida del paese dal 1992, questo è il suo quinto mandato, dopo che salì al potere dopo una devastante guerra civile, con un ma che è gigantesco e che risuona nelle parole dei rapporti di Human Rights Watch, che descrive il Tagikistan come un paese in una situazione drammatica rispetto al tema dei diritti umani. Sostanzialmente viene detto che non ci sono elezioni libere, non c'è un'opposizione indipendente e non ci sono media liberi. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti, notizie, spunti che arrivano dai quattro angoli del globo, che saranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però apriamo un capitolo che è globale, anzi dovrei dire olistico, ed è quello che parla dell'indice della fame. Intanto c'è qualcuno che commenta la presa di posizione di Nancy Pelosi, più che un'arma spuntata, sempre un gesto di disperazione. A cornate vince Trump di sicuro. Io in tutta onestà sono abbastanza d'accordo col commento dell'ascoltatore. Qualcun altro ribadisce: vergognosa la Nancy Pelosi, come il Partito Democratico Americano, cercano in tutti i modi di prendere la presidenza del paese. E se non litigo con WhatsApp, vi chiedo, vi leggerò anche la chiusura di questo messaggio. Ma se scoppia il caso Hillary Gate si ride, così Daniele da Viareggio. Torneremo a parlarne naturalmente. Qualcun altro torna sul punto degli appetiti turchi nel Mediterraneo orientale. Castelrizzo è a due bracciate nuoto dalla costa turca, ma che informazione è? La Grecia è lontana. Pure voi dalla verità e non scherzate. Così un ascoltatore, evidentemente, che stigmatizza le prese di posizione del governo di Atene che noi abbiamo riferito, e evidentemente vuole anche ridisegnare le acque territoriali, immagino, con questo messaggio. Allora, dicevo, indice globale della fame, che cos'è? Un rapporto che esce annualmente, che fotografa l'insicurezza alimentare. Quest'anno però cerca di mettere insieme un po' di fattori che non sono, come dire, immediatamente collegabili. Vi do un po' di numeri per darvi l'idea della drammaticità che permea questo rapporto. Secondo agenzie delle Nazioni Unite, OMS, Banca Mondiale, al momento 690 milioni di persone sono denutrite, 144 milioni di bambini soffrono di arresto della crescita, 47 soffrono di deperimento, 5.3 milioni sono morti prima dei 5 anni. Il tutto avveniva nel 2018, in molti casi a causa della malnutrizione. L'edizione del 2020 dell'Indice Globale della Fame, pubblicato in Italia come sempre da CESVI, quest'oggi porta la voce di Valeria Emmi, Advocacy Coordinator di CESVI. Valeria, buongiorno, ben ritrovata qui nel suo luogo lontano. Buon pomeriggio a tutti. Allora Valeria, le misurazioni e gli indici del Global Hunger Index, o Indice Globale della Fame, confortano, nel senso che voi avete dimostrato in questi anni che dal 2000 in poi c'è stato un netto miglioramento a livello globale. Però ci sono dei ma, ci aiuti a capire quali sono i ma. Esatto, abbiamo registrato sicuramente un miglioramento del livello di fame a livello globale, ma si tratta di una media, ahimè, quindi come tutte le medie nasconde poi di fatto le disuguaglianze, le criticità che ci sono in alcuni luoghi specifici, in alcune regioni, in alcuni paesi. Innanzitutto questo dato sì è confortante, però gli studi e le proiezioni ci dicono che non raggiungeremo un obiettivo importante che la comunità internazionale si è fissata da raggiungere entro il 2030, cioè l'obiettivo fame zero. È alla base di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, i 17 obiettivi che la comunità internazionale si è data, c'è un principio chiaro, cardine: non lasciare indietro nessuno. Ecco, se guardiamo ai dati delle singole regioni, dei paesi all'interno dei confini nazionali, ci accorgiamo che invece i livelli di malnutrizione sono ancora molto alti. In Africa a sud del Sahara, per esempio, una persona su cinque ancora è denutrita, cioè non assume abbastanza calorie sufficienti ad avere un'adeguata alimentazione. In Asia meridionale sono 255 milioni le persone denutrite e la mortalità infantile è ancora molto alta. In Africa Sud del Sahara registriamo il livello più alto di questa edizione, il 7,8%. Sì. Tutti questi dati in assenza degli impatti e degli effetti del Covid-19, che invece sappiamo certo, hanno un impatto importante. E questo fai bene a sottolinearlo. State ascoltando la voce di Valeria Emmi, Advocacy Coordinator di CESVI. Quest'oggi è stato presentato l'indice globale della fame e lo ripeto, è uno strumento di analisi, un'ottima fotografia per meglio capire in qualche modo dove sta andando il mondo. Sembra forse una frase un po' enfatica, ma in realtà, siccome quest'anno siete in qualche modo riusciti a stabilire un collegamento tra quella che è la salute umana, ma anche la cura del pianeta, invocando per esempio l'economia circolare, fra le altre cose, ci spieghi, Valeria Emmi, che cosa significa riconoscere questo legame che ha a che fare con la salute umana, ma anche con la cura in generale del pianeta? Perché? Queste sfide sono assolutamente interconnesse, anche la pandemia da coronavirus ha reso evidente le disuguaglianze, le ingiustizie intrinseche sia nei nostri sistemi alimentari globalizzati che nelle forti interconnessioni che ci sono tra cambiamento climatico, malnutrizione, quindi salute delle persone, degli animali e dell'ambiente. Non possiamo più ragionare per compartimenti stagni, bisogna adottare un approccio olistico, un approccio One Health potenzialmente trasformativo che sia incentrato sull'aumento di pratiche sostenibili in agricoltura e sul miglioramento della salute e del benessere degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente. Solo in questo momento, in questo modo è possibile avere un mondo libero dalla fame e dalla malnutrizione e un sistema equo e rispettoso del clima. Le parole di Valeria Emmi, Advocacy Coordinator di CESVI, l'indice globale della fame, il rapporto appunto per l'edizione italiana curato proprio da CESVI. Grazie mille Valeria per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Forse qualcuno storcerà il naso, ma quando si parla di ecosistema, di salute, per esempio del mondo animale, viene immediatamente in mente quello che è stato anche l'eccessivo, probabilmente, affidarsi ad alcune specie animali. Sto pensando ai pipistrelli, al caso del Covid-19, la totale assenza di controlli nella catena alimentare. L'indice di quest'anno è importante perché cerca di creare un legame in qualche modo e prova a fotografare in maniera olistica, come diceva Valeria Emmi, quello che è lo stato di salute del pianeta. Questa era la nostra breve prima pagina. Per la seconda, quasi evocando ancora una volta il SARS, vi dicevo di quest'hashtag che è andato per la maggiore sui social media nigeriani, non soltanto Twitter. L'hashtag era #EndSARS e per parecchi giorni era sostanzialmente l'hashtag di tendenza. Che cosa significa? Per capirlo dobbiamo andare in Nigeria. SARS infatti è l'acronimo di una speciale unità delle forze di sicurezza nigeriane, della polizia nigeriana, l'unità antirapina, che era nata nel 1992. Questa unità, secondo vari rapporti di organizzazioni per la lotta e il rispetto dei diritti umani, si è macchiata di varie nefandezze, compreso arresti arbitrari, tortura, addirittura in molti casi anche di omicidio. Insomma, la polizia nigeriana con queste unità ha mostrato tutta la sua brutalità e la società civile nigeriana, che, come dire, è anche particolarmente vivace, anche pronta a far sentire la propria voce, lo ha fatto. La buona notizia, almeno per l'opinione pubblica nigeriana, è che questa unità, che è nata nel 1992, è stata smantellata. Qualcuno storce il naso perché dice gli agenti, quelli che si sono macchiati di queste violenze, compreso i loro diretti superiori, sostanzialmente verranno dislocati in altre unità della polizia, e per questo motivo le proteste stanno andando avanti, soprattutto perché i nigeriani vogliono che i poliziotti che si sono macchiati di crimini vadano alla sbarra. Vi faccio allora sentire la voce di Nora Awolowo, che è una videomaker, una regista nigeriana, che sta aderendo proprio a queste proteste che sono coronate da questo hashtag, appunto, #EndSARS. L'ha raggiunta Antonio Taglia pochi minuti fa, a lei ha chiesto dove si trova, naturalmente, dove sta protestando e che cosa vede intorno a sé. D'altronde è una videomaker, sentite. Al momento mi trovo a Lagos e sono in mezzo alla folla che sta protestando nella piazza antistante all'aeroporto. È qui che tutti stanno convergendo. I manifestanti stanno bloccando le auto e il traffico intorno allo scalo. Questo è quello che sta accadendo in questo momento. Le parole di Nora Awolowo, videomaker nigeriana, End SARS, questo è il movimento di protesta che punta il dito contro la brutalità della polizia nigeriana, in particolare di quella unità specifica creata nel 1992, era la unità anti-rapina. Non è un caso nuovo, se andiamo a riguardare la storia del, soprattutto degli stati nel nord, del governo federale nigeriano, andiamo a vedere come molte delle reazioni da parte di Boko Haram, per esempio, nacquero proprio dall'insoddisfazione, il risentimento della popolazione rispetto alla presenza delle forze di sicurezza. E questo è un dato che va tenuto conto, perché in molti paesi africani lo stato di salute delle forze di sicurezza non è assolutamente paragonabile agli standard occidentali, europei, a quelli cui noi siamo abituati, e quindi da molti si invoca una riforma delle strutture di sicurezza di questi stati. Detto ciò, i nigeriani scendono in piazza, ma c'è un leader oppure questa esplosione civile è nata in maniera autonoma? Sentite ancora Nora Awolowo. Non ci sono leader in queste proteste. Molte persone sono scese in strada spontaneamente, prendendo parte alle manifestazioni. In molti sono stanchi della situazione attuale. Le persone non ne possono più di vedere i poliziotti andare in giro a uccidere. Nessuno guida le proteste. In tantissimi sono scesi in piazza per protestare contro le SARS in tutto il paese. Non solo a Lagos. Qui le manifestazioni e le proteste sono nate spontaneamente in diverse parti della città, come nel quartiere Island e nel quartiere Mainland, ma anche a Yaba, Mushin e Ikurdu. Si sta protestando in tutta la Nigeria e no, non abbiamo nessun leader. Le persone sono scese in strada esercitando un diritto, perché sono stanche del modus operandi delle SARS. Ed è interessante notare come alcune delle richieste, delle istanze che arrivano dalla società civile nigeriana, tante le città coinvolte, Lagos su tutte, ma anche Abuja, la capitale, potrebbero espandersi, potrebbero portare a nuovi movimenti di piazza. La Nigeria è un paese importantissimo, è uno dei paesi che nel 2050 probabilmente diventerà il terzo paese più popoloso al mondo, ha dei legami economici molto forti anche con l'Occidente e anche con l'Italia. Perché cosa protestano i giovani? Perché c'è anche un problema serissimo di condizioni economiche basilari. Sentite ancora la videomaker nigeriana. In Nigeria moltissimi cittadini soffrono per la mancanza di cose fondamentali. Il governo non è solo privo di leadership, ma non riesce a mantenere e costruire strade. Non riesce a fornire l'elettricità e l'acqua corrente. Dobbiamo fare da soli. Eppure paghiamo una tassa su tutto questo. Ma le strade sono in condizioni terribili. L'elettricità va e viene e secondo me dovrebbe essere la prima cosa a essere sistemata. Di fatto mi pare che non abbiamo più neanche un paese. Stiamo perdendo le nostre speranze. La disoccupazione è ovunque e a tutti i livelli. Dopo aver finito la scuola, io ho ancora un debito da pagare, ma non c'è lavoro. E l'unica cosa da fare è andare a caccia di lavori temporanei per proprio conto. Va tutto male in questo paese. Quindi partiamo dai punti fondamentali e cerchiamo di ottenere dal governo questi requisiti fondamentali. Vediamo se il governo ha davvero a cuore i cittadini di questo paese. Queste le parole veementi, forti di Nora Awolowo, videomaker nigeriana. Le proteste sono End SARS, ma ho come l'impressione che si espanderanno e ne dovremo parlare nei prossimi giorni. Ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questa puntata di Nessun Luogo Lontano vi propone tre pagine, tre argomenti molto differenti tra di loro. Le proteste in Nigeria, fra pochissimo leggerò un po' di messaggi che sono arrivati al 349-238-6666, l'indice globale della fame, che ha visto un po' di buone notizie, perché tendenzialmente nel mondo ci sono meno denutriti, eccetera, eccetera, ma l'insicurezza alimentare continua a esserci, con un acuirsi delle differenze all'interno delle regioni, e questo sicuramente è preoccupante. Poi tra pochissimo vi porterò naturalmente a Pyongyang per quella incredibile parata militare di ieri. Un po' di messaggi al 349-238-6666 con riferimento alla situazione delle forze di sicurezza nigeriane. Un ascoltatore scrive: la Nigeria del Nord è prevalentemente musulmana, non ci sarà stata, scrive l'ascoltatore, una repressione da parte del sud cristiano, specie nell'era Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan era il presidente cristiano che era quello precedente a Muhammad Buhari, che adesso invece è il presidente. C'è sempre stata questa alternanza non scritta, un presidente cristiano e un presidente musulmano. In realtà quello che è avvenuto è sostanzialmente che Goodluck Jonathan utilizzava l'esercito del nord per combattere gli jihadisti del nord. Questo creava una serie di strane collusioni anche di coperture da parte dei governatori del nord per combattere Boko Haram. La strategia di Buhari fu di rimuovere totalmente gli stati maggiori e la dirigenza dell'esercito proprio sulla front line, nella prima linea, e portare truppe anche dal sud che non conoscevano, è vero, il territorio, ma non avevano alcun legame con la popolazione. E invece Boko Haram legame con la popolazione ne aveva, e come. Questo era uno dei tanti messaggi arrivati al 349-238-6666. Adesso però Valentina Ternulla e Verella Bernardi ci raccontano una storia fatta di lacrime, ma anche di giganteschi razzi in 60 secondi. Offro il mio sentito incoraggiamento a tutti coloro nel mondo che ancora stanno combattendo con il virus. Prego, dal profondo del mio cuore, che la salute, la felicità e il sorriso possano sempre essere garantiti a tutti. Voglio anche mandare un caloroso incoraggiamento ai nostri compagni del Sud e spero che questa crisi possa finire il prima possibile e che presto arrivi il giorno in cui Nord e Sud possano riprendersi per mano. Voglio chiarire che le nostre armi sono un deterrente sviluppato non per attaccare, ma per difenderci. Un discorso multisfaccettato, tante le anime. Da un lato c'è stato sfoggio di muscoli con la presentazione di questo nuovo missile balistico, ancora non vi sono conferme sulla sua efficacia e nemmeno se sia utilizzabile. Se lo fosse, sarebbe il missile intercontinentale trasportabile più grande al mondo, tanto che alcuni analisti si sono messi a contare i semiassi del camion che lo trasportava in questa gigantesca parata. Lo ricordo, 75 anni dalla nascita della Corea del Nord, siamo a Pyongyang, avete sentito la voce appunto del leader Kim Jong-un. E adesso sentirete la voce di Antonio Fiori, professore di storia e istituzioni dell'Asia, esperto di Corea del Nord, Università di Bologna, autore di tanti testi proprio su questo impenetrabile paese. Professor Fiori, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie mille dell'invito. Allora, grazie a lei per essere con noi. La prima domanda è molto semplice. Ci dice che idea ha avuto di questa parata ieri a Pyongyang? Qual è il significato di questo ennesimo sfoggio della, come dire, capacità militare? Ma anche una serie di parole molto concilianti con il Sud. Addirittura a un certo punto si è scusato il leader per non aver saputo gestire al meglio questi momenti particolarmente drammatici per l'economia. Insomma, noi abbiamo sintetizzato con missili e lacrime. Non so che lei che idea si sia fatto. Ma in primis mi lasci dire che in barba a tutti coloro che speravano forse che Kim Jong-un fosse morto, evidentemente Kim Jong-un è ancora vivo. Il discorso è un discorso in linea con tutto ciò che la Corea del Nord rappresenta e ha sempre rappresentato. Fondamentalmente io credo che Kim Jong-un sia ancora una volta dando un messaggio all'interno del paese e uno all'esterno del paese. All'interno del paese fondamentalmente il messaggio è molto semplice, e cioè tenete duro perché adesso che siamo arrivati al massimo grado di realizzazione degli armamenti nucleari ci concentreremo sullo sviluppo dell'economia. Quindi è un invito all'opinione pubblica interna a non mancare di continuare a legittimare il regime. All'esterno, fondamentalmente, io credo che il messaggio prioritario sia lanciato nei confronti degli Stati Uniti. Il fallimento del rapporto con l'amministrazione Trump è abbastanza visibile e quindi la Corea del Nord non fa nient'altro se non continuare a testimoniare agli Stati Uniti di essere un paese all'avanguardia dal punto di vista delle dotazioni degli armamenti, delle dotazioni tecnologiche. Il messaggio nei confronti della Corea del Sud probabilmente è duplice, e cioè slegarsi dagli Stati Uniti, dal controllo, dall'alleanza con gli Stati Uniti, e lavorare assieme alla ricostruzione di un asse pancoreano forte e pieno di linfa vitale. Sì, e in qualche modo anche antitetico rispetto a quelli che sono attualmente gli assetti, evidentemente, la Corea del Nord, lo ricordava il professor Antonio Fiori, lo ricordo che professore di storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna, uno dei massimi esperti in Italia e non solo di Corea del Nord. In questo momento Pyongyang è a muso duro con Washington, con una serie di colpi di fioretto, per così dire, e poi immancabilmente Kim Jong-un, per usare un'espressione forse un po' troppo prosaica, riesce in qualche modo a prendere in giro non soltanto gli accordi con gli Stati Uniti ma anche la comunità internazionale. Però è interessante, così risponde il professor Fiore a un ascoltatore che ha scritto una domanda al 349-238-6666 che chiedeva della vicinanza, della dichiarazione di vicinanza alla Corea del Sud. Ecco, forse smarcarsi dalla dipendenza degli accordi con gli Stati Uniti potrebbe essere la nuova via per Pyongyang. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori con il professor Antonio Fiori, Università di Bologna, esperto di Corea del Nord. Stiamo provando a restituirvi la fotografia, quella che ha descritto la parata gigantesca avvenuta ieri a Pyongyang, i 75 anni dalla fondazione della Repubblica, dalla Corea del Nord, scusate, che ci ha restituito una serie di segnali. Da un lato quell'usuale di sfoggio militare, dall'altro una serie di concessioni al volto forse più umano di Kim Jong-un. Magari se avremo tempo ci torniamo col professor Fiori, però prima un po' di ascoltatori ci sollecitavano: come fa la Corea del Nord, con un'economia così isolata, così asfittica in molti campi, a produrre armamenti di questo livello, ammesso e concesso che quel nuovo super gigantesco missile sarà mai operativo e sarà davvero efficace come viene detto? Ma io spero che non lo utilizzino mai, certo. Ma fondamentalmente la ricchezza della Corea, molta parte della ricchezza della Corea del Nord proviene da attività illecite. Ve ne posso enumerare alcune, sì. Cioè il commercio di armi, assemblate o meno con altri paesi, soprattutto medio orientali, il commercio di oppio, che viene coltivato normalmente in Corea del Nord e poi venduto a paesi terzi da essere raffinato, e poi la Corea del Nord è il miglior paese al mondo, il più preciso paese al mondo per la contraffazione di valuta, in particolar modo i dollari americani. Pare che abbiano trafugato una pressa e quindi loro riescano a stampare moneta americana in maniera abbastanza semplice. È incredibile, semplice, forse l'ha detto semplice il professor Fiori, ma credo che sia incredibile pensare nel 2020 di rubare un dispositivo così prezioso. Insomma, pare che ci siano riusciti. Però è interessante quello che dice il professor Fiori, e l'economia illegale, forse il fiore all'occhiello di Pyongyang, lo ripeto, un paese per certi versi tuttora impenetrabile, con un'economia assolutamente isolata e con dei settori evidentemente in crisi anche per la pandemia da Covid-19. C'è un osservato speciale comunque in queste settimane, fino al 3 novembre ovviamente, è quello che farà il presidente statunitense Donald Trump, quello che faranno i repubblicani, il suo partito, ma anche i democratici. Ecco, proviamo col suo aiuto, professore, a entrare nelle case di un cittadino nordcoreano. Il cittadino medio sa qualcosa delle elezioni negli Stati Uniti, e se sì, che cosa e che cosa spera? Questa è una buonissima domanda. Cittadino medio non credo che sappia che cosa avverrà negli Stati Uniti di qui a qualche settimana. Fondamentalmente le notizie di un certo peso politico in Corea del Nord vengono ritardate, nel senso che vengono poi restituite dal giornale di stampa, il Nodong Shimbun, o dall'agenzia nordcoreana, la KCNA, diciamo così, in maniera differita, quindi non direttamente quando l'evento sta accadendo. Quello che avverrà probabilmente se lo chiede anche il regime nordcoreano, e normalmente la presa di posizione del regime stesso è, diciamo così, è una sorta di attesa, come sempre alla vigilia delle elezioni americane. Sì. Loro non sanno che cosa aspettarsi nel caso in cui il presidente eletto dovesse risultare Biden, mentre conoscono tutto di Trump. Quindi probabilmente qualcuno che si augura che il presidente rimanga Trump al mondo esiste. E questo è un aspetto interessante. Col professor Antonio Fioli, lo ricordo, insegna storia e istituzioni dell'Asia, esperto di Corea del Nord, Università di Bologna. Abbiamo provato a entrare in punta di piedi in una casa di quei giganteschi anonimi casermoni di Pyongyang per cercare di capire e intuire cosa sappiano delle elezioni americane, che è l'evento planetario per eccellenza di questi ultimi mesi. Intanto devo fare ammenda, non l'ha fatto il professor Fiori, grazie al garbo che lo contraddistingue, ma ho detto un'imprecisione totale, nel senso che era la parata per i 75 anni della fondazione del Partito dei Lavoratori Nordcoreano. Professore, lei non mi ha rimbrottato nonostante il suo ruolo, di questo la ringrazio, però Antonio Talla della redazione mi ha fatto presente e quindi chiedo scusa agli ascoltatori per l'imprecisione. Abbiamo parlato del cittadino medio, per così dire, nordcoreano. Nell'establishment nordcoreano c'è qualcuno che si augurerebbe invece un cambio di passo, quindi non più Donald Trump, ma magari Joe Biden alla guida del nemico? Ma sì, probabilmente sì. La questione sostanziale è che per l'establishment nordcoreano in questo momento ci sono delle priorità quelle priorità fondamentalmente stanno tutte nell'ammorbidimento delle sanzioni internazionali a carico della Corea del Nord, quindi per loro quello è diciamo così, l'obiettivo da raggiungere, anche perché le sanzioni internazionali stanno strozzando il paese. Vorrei però su questo essere molto preciso, sì. E cioè le sanzioni internazionali non strozzano il regime ma strozzano la popolazione, perché le sanzioni internazionali naturalmente si traducono in una minore possibilità di approvvigionamento di beni di prima necessità, certo. Quindi non vanno ai danni del regime. La questione sostanziale è che per la leadership nordcoreana i due sono assolutamente pari, Biden e Trump sono totalmente pari. Se Biden dovesse lasciar trasparire una posizione diversa da quella di Trump, quindi una minore pressione ai danni della Corea del Nord, probabilmente i nordcoreani si augurerebbero che vincesse Biden. Certo, certo. E da qui, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, stiamo anche facendo una ricognizione su alcuni paesi nel mondo che stanno seguendo con particolare attenzione l'esito e la parte terminale di questa lunga campagna elettorale, quella che vede contrapposti Donald Trump, attuale presidente, e Joe Biden. In questo breve capitolo nordcoreano ci ha soccorso il professor Antonio Fiori, insegna storia e istituzioni dell'Asia, Università di Bologna, esperto di Corea del Nord, che ringrazio. Buona giornata, professore, alla prossima. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Claudio scrive: ritengo impossibile, e se così fosse sarebbe incomprensibile, che i servizi segreti dei paesi più avanzati non sappiano cosa accade o cosa fa la Corea del Nord. Chissà che non ci siano interessi collegati alla politica, agli affari che essa intreccia, come l'interlocutore a testè dichiarato. Ma gentile Claudio diceva anche il contrario, diceva che si segue con particolare interesse quello che succede negli Stati Uniti, ma che alla popolazione viene assolutamente filtrata quella che è l'informazione. Ricordiamo anche che il professor Antonio Fiori non l'ha citato, ma una delle attività particolarmente amate da organizzazioni nordcoreane è anche l'attività di hacking, quindi di cyberterrorismo e di attacchi, e la storia recente ce ne ha consegnati parecchio. Qualcuno invece fa un plauso a quella che è stata la politica di Donald Trump, la politica statunitense con la Nord Corea, perché scrive l'ascoltatore, vediamo se riesco a ritrovarlo, i rapporti con gli USA saranno pessimi, ma almeno non volano più missili sopra il mar del Giappone grazie a The Donald. In realtà non è esattamente così, ne sono volati parecchi. Poi è vero che si sono seduti a un tavolo, si sono visti, si sono trovati, ma la realtà dei fatti è che non è che hanno smesso di volare i missili sopra il mar del Giappone. Periodicamente il regime di Pyongyang fa delle dimostrazioni di forza per alzare l'asticella, per, come dire, dare combustibile alla diplomazia. Questo per dovere di cronaca. Sono le 16:54, 50 secondi in questo esatto istante, e allora Varela Bernardi con la flemma britannica che la contraddistingue ci dice una sola parolina. You're fired. You're fired. You're fired. Che in realtà sono tre, non è una sola, quella era Order, bei tempi quelle di Order, vero? Che il preludio è naturalmente ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, a voi per essere stati all'ascolto, l'appuntamento è domani ore 16, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.